Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La manifestazione ovunque, non solo a Place de la République, già dal primo pomeriggio impossibile da raggiungere per la folla oceanica, ma in tutta Parigi, per un giorno capitale del mondo. Era stato un derby praticamente perfetto, gol, emozioni e coreografie spettacolari. Tutto questo fino al momento dell'uscita dallo stadio, quando le due tifoserie sono quasi venute in contatto. Noi rappresentiamo la Francia e dobbiamo mostrare la nostra unità al mondo intero, uniti nel dolore per dire che i terroristi non ci fanno paura. Lanci di bombe carte e fumogeni da una parte all'altra. Les terroristes nous faire peur. Una cosa incredibile, la motivazione del popolo francese è unica, paese della libertà, così è necessario essere qui, tutto Parigi è qui. Un tifoso laziale viene ferito lievemente alla testa e soccorso dal 118 quando si trova sul ponte Duca d'Aosta. Liberté, égalité, fraternité. Sono nato in Francia, di famiglia italiana e non ho mai visto tanto gente. È un messaggio. Questa è una trasmissione a carattere esclusivamente individuale e personale. Riporto oggi alla radio quella che è stata una mia impressione di ieri, che ho immediatamente twittato ricevendo strali da gran parte delle persone che hanno detto: ma scusa Nicoletti, ma che piffero c'entra quello che stai dicendo? Ho fatto una riflessione, stavo osservando in televisione come tante altre persone lo straordinario numero di persone che aveva invaso praticamente Parigi, più di 3 milioni di esseri umani erano lì per manifestare per un concetto astratto, la libertà comunque di esprimersi al di là di ogni obiettivo, di ogni punto di vista, di ogni presa di posizione, di ogni ideologia, di ogni concezione superiore della vita. Mi sembrava un principio importante, un principio molto moderno. Io amo essere un uomo contemporaneo perché ho raggiunto la leggerezza nel non considerare le mie opinioni necessariamente imponibili ad altre persone, e quindi se uno la pensa diversa da me e la pensa anche in maniera virulenta, fastidiosa, ironica, mi prende in giro, dissacra ciò che per me è più sacro, peggio per lui. Io rimango della mia idea e mi fa anche divertire, o se non mi fa divertire rispondo con mezzi adeguati, non certo con colpi di Kalashnikov. Beh, pensate, a Parigi c'erano più persone in piazza di quanti siano gli abitanti di Parigi. Questo è importantissimo, è grossissimo, una sfilza di rappresentanti, di capi di Stato, di premier, tutti sotto braccio, camminavano per strada col cappotto, con le scarpe da trekking, la Merkel con degli scarponcini da madre badessa, sotto braccio a Renzi, sotto braccio alla regina di Giordania, sotto braccio a tutti i capi di Stato, stanno lì, passeggiavano, erano scesi in piazza, una cosa veramente unica. Beh, in Italia, nella capitale d'Italia, l'istante dopo che ero uscito di casa, ho visto la città blindata perché c'era il derby Roma-Lazio. Voi direte: beh, che c'è di strano? Dovevano fermare il derby? No, figuriamoci, dovevano fermare il derby. Però vedere improvvisamente tutti i ponti, da Ponte Milvio al Ponte della Musica, tutti i ponti del Lungo Tevere che va, diciamo, dallo Stadio Olimpico a Piazza Mazzini, presidiati da ingenti mezzi di polizia, camioncini, militari in tenuta antisommossa, identici a quelli che soltanto due giorni prima avevano presidiato, combattuto e snidato i terroristi che avevano dato l'assalto prima alla redazione Charlie Hebdo e poi al negozio Cacher, in cui sono comunque rimaste vittime, e vederli lì mobilitati per dei tifosi che comunque sia prendevano la domenica pomeriggio come una buona occasione per accapigliarsi una partita idiota poi finita 2-2, quindi senza vinti e senza vincitori, comunque sia una buona occasione. La città era deserta perché diciamo ancora il ventre molle dell'umanità era lì in giro a raccattare gli ultimi residui dei cosiddetti saldi, e il resto del mondo era occupato per il derby. Voi direte: ma che c'entra? È un'altra cosa, un altro punto di vista. Sì, ma siamo così diversi noi dai francesi, perché i francesi sono i nostri cugini d'oltralpe, quelli con cui siamo sempre accaniti, quelli con cui abbiamo avuto grandi rivalità, quindi così simili e così diversi. Perché in Francia scendono in piazza persone di tutti i tipi, di tutte le religioni, di tutti i punti di vista, ragazze islamiche con i cartelli che prendevano finalmente distanza senza nessun tipo di distinguo da quello che era accaduto accaduto, scendevano e manifestavano, al di là di ogni connotazione politica. Perché lì ho visto tanta leggerezza e tanta capacità di essere in linea con la contemporaneità, e perché in Italia vedo ancora come se nulla fosse accaduto, come se la cosa non ci interessasse. Sì, a Piazza Farnese c'era stato qualcosa 2 giorni prima, ma non c'era un italiano. Sì, c'era il rappresentante della Federazione della Stampa Italiana che ha elencato una serie di sigle e sottosigle, c'era la Camusso, ma non ho visto molti italiani, ho visto soltanto francesi lì davanti. 800 24 0024, italiani e francesi, qual è la differenza? Uomini, donne, famiglie con bambini, giovani, immigrati, musulmani, in un'unica grande piazza multietnica. E poi bandiere, non solo quella francese, ma anche israeliana, turca, australiana. E le matite, espressione dell'arma pacifica usata dai giornalisti di Charlie Hebdo. E gli striscioni, tutto sotto l'occhio delle televisioni internazionali. I più rumorosi al centro della piazza, arrampicati sulla statua della Marianna di Francia, simbolo della Repubblica. Chi non è in strada è sui balconi, lungo il percorso di 2,5 chilometri fino a Place de la Nation, dove si è concluso il corteo. 800 24 0024, italiani e francesi, qual è la differenza? Vabbè, ma non la faccia così pesante, mi scrive subito un ascoltatore. Non la faccio pesante, è un'osservazione, probabilmente il mio è un punto di vista viziato. Se non fossi stato in transito per il quartiere Prati, magari fossi passato in un altro quartiere, magari non so, al Pigneto, avrei visto persone che scendevano in piazza anche loro con i cartelli. Non è che sia necessario essere scesi in piazza. Ho visto due situazioni molto diverse in una realtà umana che dovrebbe essere perlomeno omogenea. Stefano, buongiorno. Buongiorno, allora io condivido tutto. Questo mi preoccupa però. Forse non tutto, magari posso anche fare qualche sfumatura, ma ho avuto la stessa sensazione ieri proprio quando ho sentito di questi incidenti fuori dallo stadio. E insomma, c'entra molto associare questi due eventi. La sensazione è quella di veramente, mi dispiace dirlo, ma di un popolo di orchi che è indifferente a tutto. Sa una cosa, mi scusi se la interrompo, così le do altri elementi. Non è che in Francia sono scesi soltanto i radical chic per manifestare, probabilmente gli stessi coatti francesi che abbiamo visto accapigliarsi dalle parti di Ponte Milvio nella nostra espressione italica erano in piazza. Perché i nostri coatti e i nostri intellettuali comunque ieri improvvisamente si sono stati presi e assorti in altri impegni? Ecco, guardi, le due sfumature che forse possono costituire una minima giustificazione, ma parziale veramente, perché sono d'accordo con lei, può essere questa. La prima è che questo evento è successo in Francia e purtroppo si è sordi a ciò che succede agli altri, anche se, ripeto, questa cosa ci coinvolge tutti. Probabilmente quando succederà, e spero che non succeda, se fosse successo in Italia magari avremmo visto delle scene invertite, diciamo, da questo punto di vista. E la seconda, che è comunque, io spero e mi auguro che stiamo parlando sempre di una minoranza di persone, cioè i più decerebrati, quelli che veramente sono così poverini, dei redditi proprio della società, ma fanno del danno anche a loro stessi, perché non vanno da nessuna parte, persone che non hanno... Vabbè, adesso ci spogliamo dell'unica caratteristica che giudichiamo positiva del fatto di sentirci civilizzati, che è proprio la leggerezza nel guardare, osservare e giudicare, ma senza lasciarsi coinvolgere poi in apprezzamenti. Giuseppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, osservatore dell'umanità, e conosce molto bene sia la realtà italiana che la realtà francese. Un tuo punto di vista. Beh, io ieri quando hai scritto quello che hai scritto sul derby e su Parigi avrei voluto commentare, ma poi mi sono trattenuto perché la sensazione era proprio quella. Beh, io tanti anni fa, quando cominciai a frequentare regolarmente la Francia, dicevo che tornavo in Italia e mi dovevo fare delle terapie antidepressive in vena acute per consolarmi della differenza, ma questo non per un provincialismo da 4 soldi. Beh, se lo dici te, tu che sei neuropsichiatra, cosa vuol dire? Sì, un comune mortale. Tornavi e sentivi il gap e la distanza, ma la distanza vissuta nel quotidiano, cioè quando loro sulla scuola media o sulla scuola elementare, dove i nostri figli sono andati a scuola, scrivono libertà, egalità, fraternità, non lo fanno per sciovinismo, lo fanno perché insegnano ai ragazzi fin dalle scuole elementari alcuni valori che da noi una volta si chiamavano educazione civica e che adesso manco sappiamo abbiano casa. Noi abbiamo un problema fondamentale che Gilles Martinet, che è stato stato ambasciatore di Francia qui a Roma all'inizio degli anni 90, aveva descritto un bellissimo libro che si chiama Les Italiens, in cui diceva: l'Italia non è un paese povero, assolutamente, è un povero paese. E in questo voleva dire che alcuni valori, che loro chiamano in un termine stupendo, che è repubblicano, noi non sappiamo nemmeno da che parte stiano. Il dramma di una parte della nostra società è che non abbiamo nessuna consapevolezza di appartenere a un consorzio civile. La cosa pubblica per noi è res nullius, di nessuno. Per loro è la citoyenneté, è ciò che appartiene ai cittadini, alla cittadinanza. Loro sono scesi in piazza dicendo, e lo sentivo alle interviste ieri delle varie televisioni che live ti facevano la possibilità di vedere cosa succedeva, dice: noi siamo scesi come cittadini perché ci tocca, quello che è successo a Charlie Hebdo tocca a ciascuno di noi. E io sono stato commosso, non so se tu l'hai visto, dal ruolo di quel medico d'urgenza che lavorava per Charlie Hebdo, oltre che essere presidente della società francese dei medici d'urgenza, che si è abbracciato con François Hollande, perché è stato il primo chiamato dai redattori, che è corso quando hanno ammazzato tutte quelle persone, ha alzato il telefono e ha detto: Hollande, guarda che tu devi venire perché tu devi dare un tuo segno della tua presenza. Ed è il segno di come alcuni valori, al di là delle professioni, dei ruoli, questo è uno che lavora nei pronti soccorsi degli ospedali di Parigi, non è un intellettuale che sta sul pero o sul meno, però è uno che collaborava a Charlie Hebdo, e questi perché erano dei valori condivisi anche, diremmo noi, dalla casalinga di Voghera, perché a scuola, anche alle scuole elementari, gli è stato insegnato che la libertà è di tutti, non è mia o di qualcuno. Noi abbiamo ancora la cultura del privilegio, noi abbiamo ancora la cultura dei sudditi e di coloro i quali hanno le possibilità di guadagnarsi qualcosa perché hanno capacità di produrre la loro attività di tirapiedi o lasciamo stare. E diciamo, queste sono le situazioni, ci fa capire Beppe Neri, in cui emerge comunque questa caratteristica alla quale mi sento anche io complice, non è che mi voglio tirare fuori, ci sono dentro anche io fino al collo, però osservo la capacità di osservare anche sono la mota fino all'altezza della bocca, comunque distingue in qualche maniera chi invece fa finta di non vedere. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Salve, intanto le faccio segnalare, le segnalo la sua genialità, e che in questo caso probabilmente è incosciente, perché lei ha messo accanto una importantissima dimostrazione in piazza insieme a un fatto contingente come quello di un derby, dove comunque si sfila. Tra i due eventi, nella sostanza rappresentativa, non c'è alcuna differenza. Ma perché l'ho vissuto, è un'esperienza mia che racconto. Vivo in quel quartiere, mi sono capitato, sono uscito dal televisore e ho visto quel dispiegamento. Ma è la stessa cosa che può succedere qui nella mia piccola città, Macerata, quando c'è un derby come Macerata, Civitanovese, c'è una mobilitazione delle forze dell'ordine. Ma ieri è una giornata diversa, però doveva essere una giornata particolare, perlomeno generalmente. Perché se uno vede attentamente i volti di coloro che hanno sfilato in prima fila, cioè i capi di Stato, nella loro finta maschera di dolore, e questo dolore è stato così rappresentato e riprodotto e replicato, è tutta una poltiglia, è tutta una finta rappresentazione, ma dobbiamo tenere in considerazione che anche la guerra oramai è finta, con i morti veri. Una volta si sapeva chi era il nemico, oggi chi è il nemico? Ci sono tantissime sigle assolutamente rappresentative, l'unica cosa vera sono i morti, così come in una partita di pallone. Sì, questo è giusto, ma due cose ci terrei a dire. Sì, è chiaro che un politico, un rappresentante, un capo di Stato, comunque un aspetto pubblico impenetrabile dietro il quale non è mai possibile sondare l'esatta equazione dell'anima e della partecipazione. Comunque sia, ci sono stati, sono scesi e hanno camminato per strada. Rispetto allo stare blindati e mandare un telegramma, trovo che sia comunque un passo avanti. Il dolore non può essere imposto. Il dolore è una questione assolutamente privata. E quando invece, sì, ma io non è che ho provato dolore, ho provato preoccupazione, commozione, partecipazione. Dolore non provo dolore per morti che non conosco. Il dolore non si può simulare. La commozione ormai è facile, perché lo spettacolo è sempre più infimo, lo spettacolo rappresentativo. E quindi sì, ma io preferisco, mi permette, preferisco anche comunque della commozione. Sì, però preferisco che ci sia lo spettacolo piuttosto di non vedere. Preferisco vedere il più possibile e mantenermi degli strumenti di giudizio. Melog. Cronache meridiane. 800 0024 0024, non voglio stabilire dei principi assoluti per cui do delle categorie di eccellenza o di infima rappresentazione di se stessa a Francia e Italia, ma ho osservato di persona, era una mia sensazione epidermica, una differenza totale di presa di contatto con l'attualità, con la realtà, tra quello che vedevo in televisione, la grande manifestazione francese, e la polizia dislocata in tutti i ponti lungo il Tevere, perché c'era chi faceva casino per il derby Roma-Lazio, e ho chiesto al pubblico di fare una riflessione su questo. Italia e Francia, due punti di vista. Lo faccio con gli ascoltatori, lo faccio con Giuseppe Neri, che è neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologia Ospedaliera. Intanto sentiamo gli ascoltatori. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, sono d'accordissimo col tipo di paragone che ha fatto, perché è molto calzante. Abbiamo, se voglio, tre punti che possono essere di confini di differenza tra due popoli. Nel 68, il 68 è nato in Germania e in Francia, molto prima che in Italia. Quando hanno cominciato a vedere che c'era una deriva però violenta, cioè cominciavano a esserci manifestazioni violente, bandiere bruciate eccetera, un milione di francesi sono scesi in piazza per dire no alla violenza. Risultato, noi abbiamo avuto le Brigate Rosse, loro no. Loro il Bader-Meinhof, sì, vabbè. Secondo punto, loro la Germania, dico, in Germania pure c'è stato il terrorismo forte. Sì, però sì, ha avuto un periodo ben più ridotto, da noi è durato decenni. Sì, sì. Se vogliamo. C'è anche da dire che i nostri terroristi in vacanza poi andavano in Francia quando... Andavano in Francia, sì, sì, ma è chiaro che è tutto... Secondo punto... E lì diventavano intellettuali, professori, insegnavano all'università. Questo è anche vero. Secondo punto, Papa Ratzinger non l'ha fatto parlare all'Università La Sapienza, tra l'altro fondata da un Papa nel 1300. Mentre ha potuto parlare liberamente nella laica Francia alla Sorbona di Parigi. Punto numero due. Terzo punto. Ah sì, perché i nostri Voltaire, laici sono idioti come lo sono idioti fondamentalisti, alla stessa, esatto, maniera. Cioè, Voltaire era francese. Guardi che il pregiudizio laicista è molto peggio di un integralismo religioso. Ah sì, su questo sono sicuramente d'accordo. Il terzo punto, Voltaire era francese, il suo principale che conosciamo tutti, o almeno una parte, era: non sono d'accordo con te, ma mi batterò sino alla morte affinché tu possa manifestare il tuo pensiero. In Italia chi vuole fare una manifestazione, come fanno le sentinelle in piedi, a favore della famiglia, se non hai protezioni della polizia in giro con le transenne, non puoi farlo perché viene linciato. Il discorso di fondo è quello. Quindi no, vengono un po' prese per il culo, non linciati, adesso nessuno ha fatto violenza, vengono vicini altri manifestare, ma manifestano al contrario, ognuno, sia le sentinelle in piedi che le sentinelle sdraiate, manifestino quello che vogliono. Ti garantisco che stare un'ora a prendere insulti e sputi, le garantisco che è una cosa piuttosto provante. No, gli sputi sono brutti, gli insulti è una maniera di insulti, non so cosa sia accaduto veramente, ognuno faccia quello che vuole, a me fanno un po' sorridere le sentinelle in piedi, però è il mio punto di vista, mai impedirei alle sentinelle di sentinellizzarsi e combattere contro tutte le famiglie diverse, cavoli loro, ognuno la pensa come vuole. Gianni, buongiorno. Gianni ha parlato, Ilde. Buongiorno. Sì. Dunque, io vorrei stigmatizzare questo discorso della differenza francesi-italiani. Dunque, noi italiani quando protestiamo oppure facciamo delle dimostrazioni giuste, eccetera, non siamo assolutamente ascoltati, proprio è inutile, io ho provato con tante istituzioni e tutto, lasciato il tempo che trovo. Invece in Francia mi sembra almeno che ci sia più una risposta, per cui la gente è più portata a manifestare perché sente che qualcuno gli ha la, diciamo, che la piazza ha un suo spessore, una sua autonomia. Noi le manifestazioni si sa che vengono portate coi pullman dai partiti e dai sindacati, quando alla fine, appunto, già questo la dice lunga sul è solo una tradotta di persone. Allora, Ondine, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Ondine. Ondine. Ho un nome francese ma sono italiana. Allora devo chiamarla Ondine, non Ondine. Ondine, sì. E sono stata cresciuta dai francesi, dico. Educata. Ma lei ha voluto italianizzare il suo nome, Ondine? Beh, è Ondine, perché è un nome che è stato voluto da mia madre, però sì, comunque si pronuncia Ondine, perché in francese si dice Ondine. E appunto, dicevo, sono stata cresciuta dai francesi, da una famiglia molto italiana, ma cresciuta dai francesi, nelle scuole francesi, quindi io vivo la differenza tra le due realtà e ho i figli alla scuola francese, ho deciso perché mi piace molto come insegnamento. Comunque quello che volevo dire è che quando c'è stato l'attentato, il giorno dopo il direttore della scuola ha radunato tutta la scuola e ha parlato davanti a tutti i ragazzini dicendo quanto era stato grave, che nessuno deve mai intaccare il diritto alla libertà di espressione e nel dire questo il direttore si è commosso, aveva difficoltà anche a parlare. Penso che proprio i francesi, queste vignette erano gravissime, perché alcune vignette erano veramente dure, difficili, brutte, anche sui papa, anche sulla religione. Sì, il papa che si abbracciava con le guardie svizzere, sì, a qualcuno daranno fastidio, però questo non significa che vada ammazzato chi le fa. Danno molto fastidio, sono esagerati, ma loro vogliono proprio far vedere che uno ha diritto a esagerare, perché non accettano il fatto che uno abbia dei sentimenti così emotivi e fanatici sulla religione. È come dire la stessa cosa le donne vanno in giro con la minigonna, vengono violentate. Allora cosa si dice a una donna che va in giro violentata? Non dovevi andare in minigonna o non si può violentare? È la stessa cosa, loro vanno in giro in minigonna perché vogliono provocare chi è fanatico e punto, è successo. Una cosa da dire, Ondina, comunque sono persone che hanno mostrato un grande coraggio, non sono dei poveri trotskisti radical chic sfigati, è gente che comunque sapeva che qualcuno prima o poi sarebbe venuto a cercarli, certo, e hanno continuato. Esatto, cioè, almeno oggi Dario Vergassola, che è un nostro comico, detto sinceramente, io non ho mai avuto il coraggio di prendermi con l'Islam perché me la faccio sotto, loro non se la sono fatti sotto. Manuela, buongiorno. Buongiorno, io sono di parte paterna francese e per parte italiana, materna italiana insomma. Quello che volevo dire è che in questi giorni in cui ho sentito la mia famiglia in Francia, li ho sentiti tutti estremamente commossi, estremamente coinvolti. Sono scesi in piazza con i loro bambini, sono andati alle varie manifestazioni là dove si trovano, a Marsiglia o a Parigi, e parlando con i miei cugini mi dicevano appunto che le vignette di Charlie Hebdo erano per loro, sin da quando erano piccoli, qualcosa che girava per casa. Non è una famiglia la mia di sinistra, una famiglia normale, una famiglia di normale nel senso di con normali differenziazioni politiche tra i vari membri, però la laicità, il circolare. Ecco, lei ha detto una parola interessante sulla quale vorrei proprio chiamare a conclusione Giuseppe Neri, che ci ha ascoltato fino adesso. Il termine laicità, noi non stiamo considerando Italia e Francia come due entità etniche diverse, ma come due categorie in questo momento dell'esistere. Dalle telefonate tu hai colto altri elementi, perché hanno chiamato signore francesi dicendo a noi in Francia è così e gli italiani la vedono diversamente. Ci manca proprio questo concetto sedimentato di laicità, che non è un senso in senso cattivo, in senso positivo, ma una visione serena della vita, forse. No, è proprio il concetto di cittadinanza e di valori repubblicani, cioè noi siamo ancora legati alle contrade, alle parrocchie, ai clan, al quartiere, al gruppo, alla stazione, alla cosca in certe parti. Il concetto di un valore condiviso, che è quello dei valori per i francesi repubblicani, per noi diremmo della Costituzione, è secondo me ancora un valore da acquisire. Quindi non abbiamo probabilmente una storia sufficiente alle spalle di disintegrazione di tutte queste sovrastrutture che ci permetta di essere serenamente partecipi, ma non vuol dire perché ci si debba essere per forza, perché sennò si sta dalla parte dei cattivi, perché si sente che veramente lì è stato offeso un valore fondamentale, quello della libertà di esprimersi. Probabilmente per noi non è così importante essere liberi di esprimersi. Ma probabilmente per noi siamo ancora nella situazione dell'evoluzione da sudditi a cittadini, e poi tra l'altro noi siamo un paese che non ha mai mandato alla ghigliottina nessun re. Grazie Giuseppe Neri, grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, alla prossima.